131. Salsa per pesce in gratella. Questa salsa, semplice ma buona e sana, si compone di rossi d'uovo, acciughe salate, oleofine e agro di limone. Fate bollire le uova col guscio per 10 minuti e per ogni rosso d'uovo così assodato prendete un'acciuga grossa o 2 piccole. Levate loro la spina e passatele dall'ostaccio insieme coi rossi. Poi diluite il composto con l'olio e il limone per ridurlo come una crema. Coprite con questa salsa il pesce già cotto in gratella prima di mandarlo in tavola, oppure servitela a parte in una salsiera.